Buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere qui con noi. Come ogni martedì la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta all'interno del Centro Trevi organizza delle iniziative, incontri con autori e autrici. I temi che noi trattiamo spesso sono legati alla storia e questa sera e al territorio in particolare. Quindi questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Zannini, che è l'autore di questo libro. Il titolo è Contro storia dell'alpinismo. Questa iniziativa è realizzata anche insieme alla sezione CAI, che è rappresentata qui dal presidente Carlo Alberto Zanella, che saluto e ringrazio, oltre al nostro ospite, appunto l'autore Andrea Zannini, che insegna storia dell'Europa presso l'Università di Udine e che ha scritto questo libro riscoprendo appunto le Alpi, la montagna e soprattutto l'alpinismo in una veste diversa da quella a cui siamo tradizionalmente abituati. E poi saluto il professor Andrea Bonoldi, che insegna storia dell'economia a Trento e che è il nostro presidente del comitato scientifico della biblioteca, ci aiuta in tante occasioni, soprattutto quando si tratta di declinare alcuni argomenti in ambito economico, storico e soprattutto anche spesso nell'ambito locale. Vi lascio in compagnia dei nostri ospiti, vi invito eventualmente a riascoltare anche i nostri podcast delle precedenti iniziative che abbiamo realizzato, si trovano tutti sul nostro sito, ormai sono una documentazione storica, ne abbiamo quasi 800, per cui insomma c'è da sbizzarrirsi. Gli ultimi 20 e passa anni di attività sono tutti documentati e sono anche interessanti da riscoprire. Bene. La biblioteca, come sapete, è qui al Centro Trevi, aperta tutti i giorni, per cui vi invitiamo a tornare e ad iscrivervi eventualmente per avere le informazioni necessarie riguardo anche ai servizi e alle nostre iniziative. Ringrazio tutti e buona serata. Questione di competenza, insomma, tocca al presidente Zanella parlare adesso. Innanzitutto vi ringrazio tanto di essere arrivati perché... Diciamo, io considero Bolzano un po' forse la capitale del, con Trento, la capitale dell'alpinismo. Meriterebbe anche molto di più, ma quando abbiamo questi ospiti penso che dobbiamo essere veramente lusingati. Il mio libro l'ho letto e mi è piaciuto moltissimo. Ho anche parlato con degli amici, l'ho consigliato. Anzi, qui c'è un biglietto di uno che è venuto a trovarmi, un certo Roberto De Martino, non so se... No, aspetta. Sì, Roberto, l'ex presidente del CAI, eccetera, che è uno che chiaramente i suoi libri, eccetera, mi ha dato i complimenti, che è un gran bel libro. Ah, anzi, te lo lascio così. Ecco. Ecco, il libro ha tantissimi spunti molto interessanti, e su considerazioni che mi sono fatto anch'io tante volte, anche perché tante volte vai sulle montagne, faccio un esempio, Rossigliar, qua si va sullo Rossigliar, ma mi dicono che c'erano ancora i tempi preistorici che andavano sullo Rossigliar, cioè le popolazioni locali si sono sempre mosse sulle montagne, perciò su questo libro questo argomento viene proprio trattato. Adesso lascio la parola direttamente a chi ha scritto il libro e lo consiglio vivamente. Presentare un libro, un autore, è un'operazione facile, può capitare infatti a volte che non si sia tanto d'accordo o che non piaccia molto il contenuto del libro, allora si è costretti a fare giri di parole, eufemismi, insomma, per rispettare un po' quel minimo di bon ton che è dato in queste occasioni. Beh, non è questo il caso di stasera, perché stasera sia il libro che l'autore, insomma, meritano l'occasione questa controstoria dell'alpinismo merita di per sé per il tema, perché riflette con una declinazione particolare, appunto, che è quella della vicenda dell'alpinismo, una sensibilità però che gli storici che si occupano di montagna e di Alpi in particolare hanno sviluppato negli ultimi 30-40 anni, cioè un cambio di prospettiva anche nell'analisi delle vicende storiche dell'area alpina. Le Alpi erano considerate, sono state considerate a lungo un'area marginale, arretrata, no? Che si trova in qualche modo al bordo delle grandi vicende storiche. Se prendiamo grandi autori come Brodel, per esempio, parlavano delle Alpi come un luogo senza storia, delle fabbriche di uomini a uso degli altri. Quindi c'è questa visione molto incentrata sulle pianure, sulle città, sui mari, in cui le montagne erano qualcosa di residuale. Beh, questa narrazione è una narrazione che ormai è passata passata di moda in ambito storiografico. Molte ricerche sono riuscite a recuperare quelle che sono le esperienze importanti che ci sono state nelle aree montane, e questa ricerca si inserisce molto bene in questo filone, che è un filone che cerca di ridare anche una dignità storica ai protagonisti delle vicende del territorio, che mi sembra un'operazione assolutamente meritoria. E poi, allora, quindi il libro e l'argomento sono senz'altro importanti, ma lo è anche l'autore. Gli storici d'alpinismo, come dice Andrea nel libro, sono nella quasi totalità dei casi alpinisti o lo sono stati. Non sempre però sono storici di professione, il che non sempre è un male. Ci sono degli storici dell'alpinismo molto bravi senza essere storici di professione. Gregorio, per esempio, è uno di questi che racconta la storia dell'alpinismo senza essere uno storico di professione. Però Andrea posta queste due cose insieme, è un alpinista, ha a suo attivo oltre 200 vie, ha scritto una guida del Sella, quindi è un grande conoscitore anche della nostra area dolomitica, per quanto sia di provenienza assolutamente marina e marittima, nato a Mestre e cresciuto a Venezia, giusto? Sì, adesso sto a Udine. Udine, sei un po' avvicinato, ti sei un po' avvicinato alle montagne, ma ha portato questa sensibilità nelle sue ricerche, in realtà una gamma di ricerche molto ampie che va dall'immigrazione italiana in Sud America alla resistenza nell'area friulana. E ha pubblicato anche recentemente una storia d'Europa dal Neolitico a oggi, storia minima d'Europa dal Neolitico ad oggi per il mulino, e ha fatto tante cose anche che spesso gli accademici non fanno volentieri, tipo la didattica della storia, che è una cosa utilissima, importantissima, e che però è poco conveniente da fare dal punto di vista accademico, però meno male che c'è qualcuno di bravo, insomma, che queste cose le fa. E allora, in merito alla vicenda che raccontiamo oggi, che viene raccontata così bene in questo libro, che è pieno di spunti molto utili, molto, molto interessanti, mi permetto di rubare due minuti per introdurre un po' la questione dal punto di vista dello storico, no? Questa idea, insomma, che il punto di vista sulla montagna è stato a lungo segnato da una visione che è una visione esterna, di qualcuno che vedeva le montagne da fuori e che non teneva conto di quella che era l'esperienza reale di chi invece nelle montagne ci viveva dentro. Noi sappiamo che le montagne sono state frequentate da lunghissimo tempo, insomma la superstar Ötzi, che è stato trovato sull'Auslabjoch e quindi frequentava le alture già migliaia di anni fa, e l'altra, l'aveva citata il presidente prima, la nostra montagna simbolo in qualche modo di Bolzano, lo Sciliar, frequentata fin dall'età del bronzo. In cima allo Sciliar, sul Monte Castello, c'era un luogo di roghi votivi frequentato fin dall'età del bronzo, e quindi gli uomini e le donne del passato hanno frequentato le alture per vari motivi da sempre. Allora, giusto per darvi un'idea di come è cambiata nel tempo la visione esterna della montagna, sempre però senza tenere conto di chi ci stava dietro. A lungo, fino all'età medievale, la visione prevalente è stata quella influenzata un po' in qualche modo dalla cultura classica, no? La cultura classica era totalmente, pienamente mediterranea, se vogliamo, no? I valori erano quelli, e qui abbiamo una testimonianza, una delle prime testimonianze che parlano di Bressanone. No? A Bressanone ci sono trovati a un certo punto i vescovi per una delle contese con l'impero che erano tipiche dell'età medievale, e in questa memoria che racconta la vita di Anselmo, vescovo di Lucca, che era venuto a Bressanone a fare questo incontro, si descrive il luogo: in loco si quidam horrid d'asperrimo, in medis nivalibus alpibus, ubi fames assidua et frigus pene semper continuo. Quindi è un luogo orrido, asperrimo, nel mezzo delle Alpi nevate, dove la fame è costante e il freddo quasi sempre continuo. Questa è la visione delle Alpi che avevano quelli che stavano al di fuori nel Medioevo. Poi le cose un po' cambiano nel tempo, e l'altro passaggio, questo è un passaggio che viene citato anche da Andrea nel libro. Siamo nel Settecento, Rousseau, uno dei protagonisti della cultura europea del Settecento, descrive una scena nell'Alto Vallese, no? Siamo in Svizzera, Canton Vallese tragicamente noto per le recenti vicende, e qui descrive cosa trova nell'Alto Vallese, no? Nella sua Nuova Eloisa scrive: peraltro il denaro è molto scarso nell'Alto Vallese, ma appunto per questo che gli abitanti sono comodi, perché i commestibili sono abbondanti senza alcun smercio all'estero, senza consumazione di lusso nel paese e senza che il coltivatore montanaro, del quale i piaceri sono le fatiche, divenga meno laborioso. Semmai avranno più denaro, saranno più poveri, infallibilmente. Hanno la saggezza di sentirlo e vi sono nel paese del miniere d'oro che non è permesso di scavare. Quindi abbiamo questa idealizzazione, no? Sembra Heidi in qualche modo, no? del montanaro felice, incorrotto dalla civiltà, che sta nella sua bolla perfetta, che è altrettanto irreale rispetto a quella che abbiamo visto prima. Facciamo un salto in avanti, ancora ed è l'ultima, poi passo la parola ad Andrea. Siamo Heinrich Heine, inizio del XIX secolo, la descrizione dei tirolesi. Die Tiroler sind Schönheiter ehrlich, brav und von unergründlicher Geistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrasse, vielleicht weil sie zu dumm sind, um krank sein zu können. Allora, i tirolesi sono belli, franchi, bravi ed inspiegabile grettezza d'animo. Sono una sana razza di uomini, forse perché sono troppo stupidi per potersi ammalare. Allora, siamo passati dall'idealizzazione di Rousseau alla descrizione di queste belli, sani, però stupidi, lontani dalla civiltà. Ecco, questa visione di alcuni dei protagonisti della cultura delle loro epoche, le vicende legate alla storia dell'alpinismo in qualche modo, in forme diverse, combinano un po' queste visioni, ma questa storia ve la racconta Andrea, a cui passo senz'altro la parola. Mi metto le mie posizioni. Grazie moltissime per l'invito, per il piacere di essere qui, per l'introduzione. Non comincerò dicendo che cos'è l'alpinismo, chi sono gli alpinisti. Voglio presentarvi subito questo signore qui, che si chiamava Johann Jakob Scheuchzer ed era un naturalista svizzero che visse tra 6 e 700, fu un medico pubblico, un canonico a Zurigo, e è noto come l'iniziatore dello studio scientifico delle piante in Svizzera, vedete cosa indica con il dito. Nel 1702, in un suo libro, descrive scientificamente l'ambiente naturale svizzero che lui esplora in numerosi viaggi, dedicando spazio alla descrizione delle piante, dei minerali e poi dei mostri e dei dragoni della Svizzera, riprodotti in tavole scientificamente molto precise. Era la conferma, raccolta col nuovo sistema empirico della rivoluzione scientifica, di un'opinione comune molto diffusa nelle città europee colte di pianura, vale a dire che le popolazioni alpine fossero superstiziose in quanto ignoranti e che le montagne, come abbiamo sentito appena adesso, in genere le Alpi, fossero un locus horribilis, qualcosa di cui letteralmente fare a meno. In realtà le Alpi sono conosciute e vissute da migliaia di anni, non è il caso di parlare a Bolzano di Ozi, ma è interessante quest'altro passo del Vallese che si chiama Schniedeljoch e che nell'estate caldissima del 2003, che abbiamo detto l'estate più calda che ci sia mai stata, dopo c'è stata qualche estate più calda e chissà cosa ci aspetta, cominciarono a venire fuori degli oggetti, fortunatamente hanno chiamato dell'equipe di archeologi, siamo a 2756 metri, e hanno incominciato a tirar fuori degli oggetti che risalivano all'inizio del quinto millennio avanti Cristo. Quindi quel passo, quelle quote sono frequentate da 7000 anni. Nell'Ottocento il pregiudizio sugli abitanti delle vallate alpine, Zudum, abbiamo visto, viene confermato dalla nuova scienza medica. Perché? Perché gli studi eziologici sul cretinismo e sull'ipertiroidismo, che provoca il gozzo, patologie dovute alla mancanza di iodio, confermarono l'alta percentuale di cretini tra gli abitanti delle Alpi. Questa immagine rappresenta il medico, ancora una volta svizzero, Johann Jakob Guggenbühl, che ad Abendberg, sopra Interlaken, fonda nel 1841 la prima clinica per pazienti affetti da cretinismo. Mi è piaciuta questa immagine perché, vedete, il dottor Guggenbühl e i suoi pazienti sulla parte bassa e tutta l'immagine è dedicata alle montagne. Il messaggio è inequivocabile. Sono le montagne che rendono cretini. Popolazioni così sottosviluppate e primitive non potevano dedicarsi ad attività che non fossero strettamente legate con la propria sopravvivenza. Meno che meno potevano misurarsi con la dimensione delle vette, che richiamava qualcosa di alto, elevato e spirituale. Così, per esempio, in uno dei libri più famosi, quello che ha fondato sostanzialmente la storia dell'alpinismo, cioè Il terreno di gioco dell'Europa di Leslie Stephen, la storia dell'alpinismo è la storia del processo con il quale gli uomini, cioè gli uomini di montagna, hanno gradualmente conquistato i fantasmi della loro immaginazione. Tappa fondamentale di questo processo di emancipazione degli alpigiani, come appena detto Andrea, è stato il Settecento, opere come Le Alpi di von Haller oppure Giulia la Nuova Eloisa Jean-Jacques di Rousseau, che cominciarono a far diventare i montanari di moda, però idealizzati, come abbiamo visto, cioè potremmo dire quasi montanaro ad uso dei ceti intellettuali delle grandi capitali europee. Poi naturalmente le Alpi diventarono famose come laboratorio della natura, che consentiva di scoprire i grandi segreti della natura. Così, secondo una ricostruzione che è diventata tradizionale, sarebbero stati gli studiosi e gli scienziati nel Settecento a rompere il muro della paura e della superstizione montanara, aprendo la via verso le vette. Non è di certo un caso se in tutte le storie dell'alpinismo la parola scoperta e conquista delle Alpi, le due parole vanno assieme. Vale a dire le stesse parole con cui da secoli si chiama l'inizio del colonialismo europeo, la conquista di terre che erano state in realtà scoperte da decine di migliaia di anni da chi le abitava e che furono conquistate dagli europei semplicemente sulla base di un principio di forza. Quello che cerco di fare nel mio libro, è molto breve qui oggi, è rovesciare quest'ottica che è a tutti gli effetti imperialista. Provo a dimostrare che l'alpinismo non è stato inventato né dagli scienziati illuministi né dalle borghesie cittadine europee, ma era un'occupazione, un passatempo, un'attività ludica diffusa da secoli, forse da sempre, tra le popolazioni che hanno abitato le nostre Alpi. Sotto il profilo della ricerca storica, il problema è ben noto. Come dare voce alla cultura popolare? Come ricostruire la storia di quelle popolazioni che non hanno lasciato nulla di scritto e che sembrano non avere una storia propria, come per esempio gli schiavi, oppure come le donne? Come testimoniare salite di cui è rimasta solo qualche traccia di passaggio, magari solo un ometto di vetta, che i primi salitori sedicenti alpinistici di una cima hanno trovato sulla vetta? Come ricostruire la storia di una montagna che era stata salita nel tempo, come riportavano le guide, da valligiani o cacciatori sconosciuti? Ecco, qui entra un po' in gioco il mestiere dello storico, perché normalmente i fatti storici lasciano quasi sempre dietro di sé una traccia, l'importante è andarla a cercare. Vi faccio l'esempio di Konrad Gesner, un altro zurighese, non a caso, quel circolo di umanisti che verso la metà del Cinquecento si è scoperto essere già dotato di una idea molto matura dell'andare in montagna. Gesner scrive all'amico Jacob Vogel nel 1541: «Finché Dio mi concederà di vivere, almeno una volta all'anno scalerò una montagna, lo farò per studiare i fiori alpini», quindi motivazione scientifica, «ma anche per procurare nobile esercizio al mio fisico e gioia al mio spirito». 1541 qualcuno ha detto: ecco, abbiamo trovato l'inventore dell'alpinismo. L'inventore dell'alpinismo che si propone di salire una cima ogni anno. Purtroppo di Gesner disponiamo del resoconto di una sola salita, peraltro una bellissima montagna, il Monte Pilato, che è sopra il lago di Lucerna. E cosa scopriamo? Che in realtà l'inventore dell'alpinismo, quando arriva sulla cima, dice: sulla cima si vedevano alcune scritte con i nomi di chi era stato lì, l'anno, alcuni stemmi gentilizi o familiari. Dunque il Pilato era una salita che potremmo definire a metà del Cinquecento frequentata. Da chi però? Per altre vie sappiamo che l'avevano salita alcuni notabili di Lucerna, un docente dell'Università di Vienna con studenti e colleghi accompagnati da una guida, addirittura un principe germanico protestante. Era una salita internazionale. Naturalmente tutti costoro venivano accompagnati da guide e cacciatori locali, di cui non sapremo mai il nome. Di un cacciatore sappiamo il nome. Bisogna andare da tutt'altra parte, bisogna andare sul Gran Sasso. Siamo grosso modo negli stessi anni, cioè quasi mezzo millennio fa. E non è questo signore qua. Questo signore qua è un personaggio eccezionale, era un ingegnere militare che si chiamava Francesco De Marchi e nel 1573 decide di salire sul Corno Grande. Dice di essersi innamorato, aveva 68 anni e questo conferma che gli innamoramenti senili sono i più pericolosi in assoluto. Ad Assergi trova un cacciatore di nome Francesco di Domenico, attenzione perché qui incomincia a esserci un cliché, che naturalmente cosa gli dice? Che lui c'era già stato, ma malamente vi voleva tornare. Insomma, organizzano una piccola spedizione e il 20 agosto 1573 vanno verso la vetta, ma a un certo momento i sei si trovano in una zona senza né sentiere né scale. Il cacciatore a quel punto gli dice una frase che secondo me è alpinisticamente perfetta: io voglio andare in ogni modo. Della serie: ho camminato ore e ore, vedo la cima, io voglio arrivare in cima. E il De Marchi, che probabilmente del tutto giusto non era, gli dice: dove tu anderai venirò anch'io. Risalgono lungo quella che probabilmente adesso è la frequentatissima Via Normale, rischiando più volte di precipitare, scrive il De Marchi, come fece un frate l'anno 1572, quindi l'anno prima, che cascò e andò in pezzi. In 5 ore arrivano in vetta e il De Marchi dice una frase stupenda: pareva che io fossi in aria. L'anno scorso è stato premiato a Trento il premio del pubblico un film che ricostruisce questa storia, che hanno intitolato giustamente Pareva che io fossi in aria, dove però l'alpinista sembra il De Marchi, cosa sulla quale io non sono del tutto d'accordo. Per certi versi però la cosa più importante è la storia successiva del Gran Sasso, che ci spiega come una storia totalmente stravolta. Perché? Perché a fine Settecento un naturalista teramano, il marchese Orazio Delfico, partendo da Isola del Gran Sasso, quindi siamo dall'altra parte, assieme a dei compagni e agente del luogo, porta vari strumenti per le misurazioni barometriche e giunge sulla vetta orientale. Le due vette sono distanti, ma sono sostanzialmente la stessa quota. Cosa dice Delfico in una relazione che gli è stata quasi subito pubblicata? Che la montagna era praticata da cacciatori di camozze, i quali hanno creduto e detto di essere arrivati alla sommità della montagna. Naturalmente questi non potevano portare nessuna testimonianza, se non la propria parola, del quale evidentemente nessuno tenne conto. Così la salita di Delfico fu celebrata come la prima salita del Gran Sasso, quindi la massima altitudine degli Appennini. Solo nel 1938, sul bollettino della Società Geografica Italiana, viene pubblicata la trascrizione del manoscritto di De Marchi e si iniziò a ristabilire qualche verità. Quindi Delfico viene celebrato a fine Ottocento come il primo salitore del Gran Sasso, con buona pace dei cacciatori di Camozze, con buona pace dell'ingegner De Marchi, con buona pace di Francesco Di Domenico e anche con buona pace del frate, che non sappiamo se è caduto in salita o in discesa. Però c'è andato. Ci vuole, per riuscire a scoprire queste labili tracce, un mediatore colto. Nel caso del Monte Titlis, che è questa bellissima montagna nelle Alpi Bernesi, il mediatore colto è un'abbazia benedettina, dove si ferma a metà Settecento un altro zurighese, lo storico Johann Conrad Füssli, e raccoglie la voce che il Titlis era stato scalato 22 anni prima, cioè nel 1744. Viene fatta una inchiesta e si rintracciano due dei componenti della cordata, che danno versioni concordanti sulla salita. Vengono interrogati separatamente, come fa la polizia. E la comitiva era stata composta da quattro persone. Attenzione: un mastro casaro, un portinaio, uno stalliere e un fabbro, tutti lavoranti nel monastero. Adesso c'è un comprensorio sciistico, io non sono mai stato, però è impressionante. A quell'epoca era una montagna del tutto sconosciuta, la salita era di 2000 metri, non serve che vi dica cosa vuol dire 2000 metri, i quattro sono dotati di alpenstock, giunti sul ghiacciaio si erano messi i ramponi, Fusseisen, si erano legati con una corda e avevano attraversato i crepacci a uno, mentre gli altri facevano sicurezza. Giunti in vetta, i quattro del monastero avevano piantato un palo al quale avevano attaccato un drappo nero che si erano portati dietro e che fu visto dal monastero per lungo tempo. Cosa aveva spinto i quattro popolani a salire una montagna severa come il Titlis? Per rispondere a questa domanda andiamo sull'Ancogel, che in realtà è molto vicino qua, siamo nei Tauri. Un contadino di Böckstein, vicino all'odierna Bad Gastein, di cui sappiamo solo il cognome Patschg, non sapevo nemmeno il nome, Patschg, salì la bella piramide che vedete dell'Ancogel, la montagna più alta della zona. Non sappiamo altro di questa salita. Nel 250esimo dell'ascensione è stato girato un lungometraggio intitolato La culla dell'alpinismo, che assegna a questa impresa, chissà quante altre ce ne sono state in giro per le Alpi, un valore pari a quello della prima del Monte Bianco nelle occidentali. Cosa spinse il solitario contadino di Böckstein e i quattro lavoranti di Engelberg a innalzarsi verso le vette? La domanda mi sembra del tutto fuorviante. Forse è necessaria qualche motivazione in più per chi ha passato tutta la vita in montagna, che il desiderio di vedere cosa ci sia sulla cima della montagna che vedi per tutta la vita dalla finestra di casa? Io credo di no. La nascita dell'alpinismo viene fatta coincidere con la conquista della vetta della massima altitudine continentale, cioè il Monte Bianco, da questi due signori, il medico Michel Gabriel Paccard e il contadino cercatore di cristalli Jacques Balmat, l'8 agosto 1786. Ma già nel decennio precedente, almeno tre salite lungo l'arco alpino testimoniano come l'alpinismo della gente di montagna avesse già raggiunto una considerevole maturità di tecniche, attrezzi e mentalità. Nel 1778 un religioso dell'ospizio del Gran San Bernardo, questo Laurent-Joseph Murit, sale il Mont Velin, un'alta cima la cui salita richiede impegnativi passaggi di ghiaccio. Murit è un valligiano del Vallese e si fa accompagnare da due cacciatori. Nello stesso anno un gruppo di gressonari alla ricerca della leggendaria Valle Perduta, ricca di pascoli e armenti, in competizione con i valligiani di Alagna, sale fino alla roccia della scoperta. E questo piccolo dentino scuro qui, gli alpinisti riconosceranno la cresta dell'Iskam, che è una delle creste più famose del mondo, e raggiungono i 4.178 metri di questa roccia della scoperta. Quindi ben prima delle spedizioni Belmonte Bianco erano stati superati i 4.000 metri, che è sempre non tanto un problema di tipo psicologico, quanto sappiamo un problema di tipo di adattamento fisico. Dalla parte opposta delle Alpi, l'anno prima, il 1777, viene salito il Tricorno nelle Alpi Giulie, al secondo tentativo, da un gruppo guidato da un giovane medico di Stara Fucina, Lovrenz Villomitzer, e composto da un minatore, due cacciatori e due notabili dei paesi ai piedi della grande montagna. In questo caso, come nel Bianco nel decennio successivo, ci fu la spinta di un mecenate, il barone Carniolino, proprietario delle miniere locali Sigmund Zeus von Edelstein, che probabilmente era interessato alla scoperta di giacimenti. Ma la componente montanara locale fu determinante. Prima che arrivassero negli anni successivi dei salitori turisti, la cima fu raggiunta più volte dai locali, tra cui un pescatore e un cacciatore che giunse in vetta di notte e da solo. Il Tricorno presenta nella cuspide terminale una impegnativa parete di roccia oggi attrezzata a via ferrata. Il Tricorno è sulla bandiera slovena. Tutti gli sloveni, se hanno la possibilità una volta nella vita, ci vanno, quindi la ferrata è consumata in una maniera pazzesca, ma vi assicuro che se non toccate i ferri è un'arrampicata veramente seria, compresa la cresta tra il piccolo e il grande Tricorno. E le Dolomiti? Nell'agosto 1802 una comitiva di 7 persone, composta da un medico, un giudice, due notabili, tre preti e due portatori, sono tutti ladini, se ne va a zonzo sul ghiacciaio della Marmolada, vi ripeto l'anno 1802. Sembra una gita come tante di persone che evidentemente praticano questo tipo di passatempi. Perché veniamo a saperlo? Solo che è mezzo secolo prima dell'avvio dell'alpinismo nelle Dolomiti. Perché veniamo a saperlo? Perché un sacerdote a un certo punto decide di mollare tutti e di andare a vedere, testuali parole, trovate all'archivio notarile, all'archivio vescovile di Bressanone, di andare a vedere cosa c'è sopra. Non tornerà più. E la storia della gita sulla Marmolada del 1802 salterà fuori dalle pagine dei registri dei morti della Pieve di Livinallongo, dove il parroco del povero prete gli fa un cazziatone spaventoso, e sulla relazione che il parroco deve mandare naturalmente al vescovo a Bressanone. Monte Pelmo. È stato appurato che era già stato salito negli anni 20 dell'Ottocento, se non addirittura a fine Settecento, ben prima che l'irlandese John Ball nel 1857 si inventasse la sua prima salita alpinistica. La cengia di Ball, che è questa qua. Così pure il Sorapis e il Cristallo, che rientrano però tra i trofei che si assegnano all'austriaco Paul Grohmann nelle gloriose campagne di prime salite degli anni 1864-1865. In sua compagnia vi era questo ampezzano, l'unica immagine che abbiamo, straordinariamente una foto, Francesco Lacedelli, detto Checco da Meleres, che si fa presto a fare i conti. Quando Grohmann arriva in Ampezzo aveva 66 anni. Secondo voi perché uno di 30 anni si piglia una guida di 66 anni, se non perché era già stato nelle cinema che aveva fatto? Difatti, attraverso uno scrittore dello stesso cognome, sappiamo che la Cedelli aveva salito in gioventù, si fa presto capire gli anni 20, sia il Cristallo che il Sorapis. Gli esempi potrebbero continuare a lungo. Due fatti hanno contribuito a cancellare la storia dal basso dell'alpinismo locale e valligiano dalla storia ufficiale dell'alpinismo. Il primo è questo modello sociale e sportivo che dagli anni 50 dell'Ottocento servirà alla conquista alpinistica delle Alpi. La cordata composta da uno o più clienti borghesi, li vedete ai lati, e da una o più guide contadine e dai portatori. Nelle relazioni il contributo delle guide non viene mai citato, addirittura i portatori non vengono nemmeno nominati. Al montanaro non era riconosciuta alcuna dignità alpinistica, ma solo abilità fisica, coraggio, un istinto primordiale di comunione con la natura, una idealizzazione banalizzante dell'abitante tipo delle Alpi, finalmente affrancato, grazie al suo datore di lavoro colto, dalle superstizioni arcaiche. L'altro elemento è che vennero fondati i club alpini, associazioni nazionali che, come avvennero per tutti gli sport, ne fissarono le regole e contribuirono così a cancellare la storia dal basso dell'alpinismo. Mancava un solo tassello: inventarsi il primo alpinista, possibilmente italiano, possibilmente un genio, un campione dello spirito italico. La lettera di Petrarca dal Mont Ventoux, nella quale il poeta racconta l'ascensione sulla cima francese da lui compiuta nel 1336 in compagnia del fratello, calzava a pennello. Se non che proprio questo capolavoro della nostra letteratura, guardato con un altro spirito, senza cioè presupporre che la gente di montagna non fosse in grado di godere della gioia delle alte vette, guardata in questa maniera, proprio quella lettera è la testimonianza migliore che la storia prima dell'alpinismo, dalla storia prima dell'alpinismo, è stata esclusa la gente di montagna. Controstoria dell'alpinismo, con i suoi racconti di salite compiute da gente sconosciuta, proto o primi alpinisti, cerca di fare proprio questo. E io vi ringrazio dell'attenzione. Grazie molto ad Andrea Zanini per questo estratto di quello che troverete nel libro. È un antipasto, insomma, no? Nel libro ci sono tante altre storie che vengono raccontate, ma il tono e la chiave interpretativa l'avete già capito. Allora, io ne approfitto, perché ho il microfono, per fare una domanda. Una domanda che forse Andrea non vorrebbe farsi fare, ma gliela faccio lo stesso. Allora, noi parliamo di una controstoria dell'alpinismo. A questo punto inevitabilmente dobbiamo provare a capire, se vogliamo, cosa si intende per alpinismo, nel senso che l'alpinismo è quello di Alex Salmond che scala la Tower 101 di Taipei a mani nude o si fa il Capitan in meno di 4 ore, no? in free solo, e l'alpinismo è quello dei turisti paganti in coda per salire sull'Everest, quello di questi signori con l'Alpenstock che attraversano i ghiacciai a inizio 800. Che definizione diamo all'alpinismo per scrivere una controstoria? Beh, grazie innanzitutto alla domanda, che non è assolutamente scontata. Ma come moltissimi fenomeni culturali e come gran parte degli sport, questi cambiano con il tempo. Quindi si evolvono, si trasformano. Pensiamo per esempio alla caccia. La caccia ha una funzione di sopravvivenza, viene ritualizzata e ne è derivato qualcosa che ha a che fare con uno sport, ma no, la caccia alla volpe inglese, no? È qualcosa che sta tra lo sport, il rito, la definizione delle classi, l'esibizione e quant'altro. Ma un po' tutti gli sport hanno attraversato questa vicenda. La mia nozione di alpinismo, se vogliamo, è molto banale, cioè è quella tecnica del CAI, cioè alpinismo è quando metti le mani sulla roccia. Prima sei un escursionista, quando metti le mani sulla roccia fai dell'alpinismo. Alcune di queste salite sono dal punto di vista sia della tecnica su ghiaccio sia della tecnica su roccia, non hanno nulla da invidiare a tutta la prima fase dell'alpinismo che veniva considerata dal Monte Bianco fino al Cervino. Via. È l'età d'oro dell'alpinismo. Le difficoltà poi erano quelle che la gente di montagna era abituata ad affrontare comunemente. Pensiamo a quelli che attraversavano le Alpi d'inverno. Un semplice passo pone delle difficoltà tecniche considerevoli. Pensiamo al lavoro in montagna. Mi viene in mente il Monte Forato in Friuli, dove i pastori tiravano sulle pecore con le corde per portarle in luoghi, in pascoli dove... Insomma, è una nozione ampia di alpinismo che è quella della prima fase dell'alpinismo. Dopo l'alpinismo ha attraversato altre 10 fasi successive: l'alpinismo dei senza guida, l'alpinismo delle difficoltà crescenti tra 8 e 900, la battaglia per il sesto grado, la diversificazione dopo la seconda guerra mondiale, quando nascono i vari alpinismi settoriali: c'è l'alpinismo invernale, c'è l'alpinismo solitario, c'è l'alpinismo femminile, c'è l'himalaismo e così via. Adesso c'è poi gli americani, l'alpinismo come gioco, l'abbandono dell'idea della lotta sull'Alpe. Quando io e lui ci siamo iscritti sulla tessera, avevamo la frase di Emilio Rei, bello come la lotta con l'Alpe, e così via, insomma. Ecco, quindi è un'ennesima fase di trasformazione. Devo dire che Arnold, quando l'abbiamo visto sul Captain, ci ha gelato il sangue a tutti quanti. L'altro giorno che l'abbiamo visto scalare una cosa, adesso non mi ricordo chi ha detto che se uno ha un appoggio così per riposare i piedi, poi mette la scarpetta e si riposa lì, può farne 8 di... Comunque, tanto di cappello, insomma, ecco, io mi assicurerei anche sulla scala esterna di casa mia. Anch'io. Bene, domande? Abbiamo il microfono, per favore, perché registriamo. Proviamo così. Sì. No, ha detto che i grandi esclusi sono stati le persone che vivevano in montagna, e fra queste però ci saranno state anche delle donne, immagino, perché in tutta la storia dell'alpinismo le donne, che sono la metà dell'umanità e anche la metà della gente che viveva in montagna, sono state poco considerate. Lei ha cercato di inseguire qualche traccia, di... raccogliere qualche testimonianza anche di donne nel suo libro? Allora, dunque, se c'era una persona che mi poteva fare questa domanda, sei tu. In realtà me la fanno in ogni presentazione. Io 20 anni fa ho scritto un libretto che ho scoperto che avete qua in biblioteca, che si chiama Tonache e Piccozze, e dove mi concentravo sui sacerdoti e la nascita dell'alpinismo. E una mia carissima amica, che tra l'altro è accademica adesso, mi ha fatto la domanda: a quando scriverai Monache e Piccozze? In realtà devo dire che in tutte queste mie ricerche io non ho trovato citata praticamente mai, anzi direi mai, una donna, perché se solo ne avessi trovata una in questo alpinismo, prima dell'alpinismo, se solo ne avessi trovata una, avrei fatto tutto il libro su quella donna lì. In realtà ci troviamo di fronte a un silenzio, che è il silenzio sugli alpinisti prima dell'alpinismo, sui montanari alpinisti prima dell'alpinismo, e all'interno di questo silenzio c'è probabilmente un silenzio ulteriore. Cioè il silenzio sulle donne che andavano in montagna. Perché? Perché noi sappiamo che c'è dietro, come si può dire, una impostazione di genere molto forte, rispetto alla quale tu conosci il libro della rispetto alla quale il fatto che le donne in realtà in montagna frequentassero gli stessi ambienti nelle terre alte e avessero i medesimi strumenti degli uomini è una cosa che è risaputa, lo dico per il pubblico. C'è un bel libro scritto da un'alpinista e storica triestina, che tra l'altro è morta recentemente, Daniela Durissini, che si intitola «C'è una donna che conosce la strada?». Questo perché nelle Alpi Carniche, che fino alla fine dell'Ottocento sono quasi inesplorate, arrivavano delle piccole spedizioni triestine o austriache, Trieste ancora sotto l'Austria, e per farsi indicare la via per le alte vette chiedevano se c'era una donna che le indicava. Perché? Perché erano paesi in cui gli uomini non c'erano praticamente mai, erano emigranti, e le donne erano quelle che si incaricavano di andare a sfalciare più in alto, quindi conoscevano i percorsi più impervi, a fare i lavori più di fatica, erano veramente quelle che conoscevano maggiormente la montagna. Gli uomini erano emigranti, tornavano, passavano l'inverno in osteria, ma il rapporto vero con la montagna ce l'avevano le donne. Ecco, all'interno di questa realtà che secondo me implica che in realtà anche le donne avessero il piacere di godere delle alte vette, io non ho trovato casi se non quelli di epoca storica, cioè successivi alla prima salita del Monte Anche, anche se tu citi nel libro in realtà un caso locale interessante della Laugenspitze, sì. 1552, dove il barone Jacob von Boymont sale con la moglie e con la suocera, si porta dietro anche la suocera, che non è una cosa proprio usuale, sì, andare in montagna. Questo è veramente, voglio dire, lodevole portarsi dietro la suocera, ecco, è veramente... Magari chissà cosa dovrà fare. Però non mi risulta che sia una salita. È lodevole perché la suocera aveva i soldi ed era... Esatto. Ah, è giusto, ecco. L'unico caso in cui è diverso il discorso, certo. Sì. Ma poi si può considerare una salita alpinistica? Non credo. Ma sì. Sì, ma tante di queste salite non si considererebbero più salite alpinistiche, forse? Non lo so. Nella gran parte io ho cercato di dividere, perché se tu prendi i grandi repertori delle prime salite alpinistiche ti mettono Roccia Melone, che ci arriva su una strada che ci vanno i camion, il Mont Ventoux lo vediamo ogni anno in televisione, ci arriva la carovana. Io cito le salite dove bisogna mettere le mani sulla roccia. Questa del barone, come si chiama la cima? Laugenspitze, Monteluc. Il Monte Luco, non mi risulta, io non l'ho fatto, però non credo che sia una salita. Ah, insomma, dai, però a quei tempi era diverso. Le mani non sono le mani. Non c'erano sentieri, probabilmente. Comunque volevo dire sul discorso femminile che abbiamo cominciato a sentire parlare di donne con Mari Varale e Paola Bisinger. Mari Varale, che è stata costretta ad andarsene dal CAI perché non veniva considerata come alpinista. Questo era successo almeno su a Trieste. Ma più che Mari Varale, mi raccontava una mia amica che stava sistemando l'archivio della Società Alpina Friulana, perché ci sono stati 100 l'anniversario, che fino agli anni 50 tu trovi tutte le foto delle gite del CAI e vi ricordate come si faceva? Si scriveva dietro le persone, sì. Ecco. E in molte foto degli anni 50, qua parlo per i giovani, sembra che stiamo parlando del XIV secolo, ecco, in molte foto degli anni 50 è segnato solo il nome degli uomini, oppure la donna gli si diceva, toh, scatta la foto. Quindi voglio dire, l'impianto di genere dell'alpinismo è durato fino... E questo ha sepolto probabilmente l'esperienza dell'alpinismo femminile prima dell'alpinismo ancora più di quanto è stato sepolto l'alpinismo. E lei ha scritto questo? scritto nel libro questo? Sì, certo, l'ho scritto. Sì, l'ho scritto. No, della controstoria, papà. Sì, ma ci sono altri che molto meglio di me hanno scritto la storia dell'alpinismo visto dalla parte delle donne. Se vuoi te ne presento una. Cioè, il mio libro è stato dedicato a questo tipo di argomento. Io ho avuto il piacere di conoscere Paola Wiesinger, che aveva un albergo su Alpe di Siusi. Era già anziana, però molto lucida. Sono andato su per lavoro e sono rimasto lì tutto un pomeriggio a parlare con lei, che mi raccontava delle sue difficoltà, certo, con Steger, di far conoscere che anche lei aveva aperto la via sul catinaccio, che anche lei aveva fatto queste cose assieme a arrampicatori, perché era la tendenza a considerare solamente l'uomo, ma non chi che aveva la stessa potenzialità. Certo. Bene, altre domande? Io. Gregorio. Approfondendo la Paola Wiesinger, dal punto di vista atletico era nettamente migliore lei di Hans. Per esempio nelle trazioni lei riusciva a tirarsi su con un braccio solo, sia di destro che di sinistra. Claspio. Cosa che Hans non riusciva a fare. Cioè, veramente erano delle cose. Solo che lui era l'alpinista, la guida, esatto. Lei era la sua accompagnatrice. Poi, in effetti, il suo nome appare nella storiografia, non è che sia stato cancellato, però è ovvio, il maschio viene prima, in una maniera più assoluta. Voi qua avete un'altra grande alpinista, la moglie di Steinkötter, la Vitti Steinkötter. Io ho conosciuto lui, ma lei, non mi ricordo, forse ci siamo trovati da qualche parte, ma lei gli andava dietro, ma mi diceva Gino Buscaini, ecco, adesso mi ricollego, mi diceva Gino Buscaini che lei gli andava dietro e andava su meglio di lui. Vabbè, comunque questo voglio dire, ci siamo spostati un paio di secoli dopo rispetto a... Invece volevo dire delle alcune considerazioni sul libro. Allora, mi ha colpito, sì, le cose che vediamo noi attualmente. Cioè, io quando vado in montagna ammiro quello che c'è, e qui c'è Placidus Spesca, che mi sembra che aveva scritto che le Alpi, ripeto, sono l'elemento più magnifico e sublime della creazione e meritano di essere ammirate al di sopra di ogni altro. Per quanto siano ammirevoli se viste nel loro insieme, lo diventano ancora di più se si considerano solo le più alte di esse, perché sono le più vicine al corpo celeste e al firmamento e alla stessa città di Dio. Cioè, noi, io almeno come... non mi considero un alpinista, ma forse un montanaro, non lo so. Io ogni volta che vado in montagna ho qualche cosa che mi riempie, cioè sapere che anche allora lo facevano, cioè questo vuol dire che non è che per loro la montagna era solo andare a caccia di cristalli o di fiori, eccetera, guardavano anche le bellezze. Sì, allora questo religioso, ma era cattolico, questo sacerdote, ha avuto un momento di defiance, è un po' il mio mito. Aveva una modernità di visione pazzesca. Racconto tutta una serie di episodi, ce ne sono anche di divertentissime. Era prete, per modo di dire, cioè se fosse vissuto in un'altra epoca avrebbe fatto tutto fuorché il prete. A un certo momento, secondo io, il sospetto che accompagni la gente facendosi pagare, perché c'è un episodio in cui ci sono dei signori della Germania centrale, adesso non mi ricordo di quale città, lui li porta verso una cima di cui si era informato prima che non era stata salita. Già questa è una guida, non lo fare fare. Poi cosa fa? Arriva a un certo momento in testa al ghiacciaio, questi scoppiano, non ce la fanno più. Cosa fa? La roba più sbagliata, li mette lì, li lega e li lascia fermi sul ghiacciaio. Prende il pastore che gli faceva da portatore, va in cima, a un certo momento salta anche il pastore, lega lì anche lui, cosa che se una guida fa una roba del genere la radiano immediatamente, e torna giù, si riprende il pastore, si riprende questi qua che erano anche senza occhiali, cioè oftalmia eccetera, li porta giù. E la prima cosa che fa Scusa, adesso mi ricordo, la prima cosa che fa va a chiedere in paese, ma qualcuno è mai salito su quella montagna e come si chiama quella montagna? E credo che nessuno gli sappia dire il nome. Quindi questo era di un'altra. A un certo momento, siccome sostiene l'esercito francese, i suoi superiori lo mandano in esilio a Innsbruck. Cosa comincia a fare? A salire tutte le cime intorno a Innsbruck, cioè lo mandano nel paradiso praticamente. Dopo ritorna in Svizzera e non gli danno mai una parrocchia perché non c'è mai, i suoi cappellani si lagnano continuamente e lui dov'è in giro per le montagne. Quindi sì, è un po' il mio mito questo Placido Special, veramente. Oh, scusa, un'altra cosa che mi è piaciuta è che noi come CAI, ma penso anche a molte persone, raccomandiamo sempre quando si va in montagna di cosa fare, di portarsi questo, di portarsi quest'altro, lo zaino, eccetera. Qui è descritto la sua guida per intraprendere i viaggi tra i monti. È sempre Special, sì, questo. Che rimane manoscritto. Era un vero e proprio manuale di 48 pagine nel quale il monaco esponeva considerazioni sul tempo nelle regioni montane, che il tempo bisogna prendere anche informazioni sul tempo, con consigli sul comportamento da tenere, sui preparativi, l'alimentazione, carne fresca, cotta, biscotti, il materiale, l'abbigliamento, vestiti a strati, non dimenticare mai l'impermeabile, le scarpe che devono essere impermeabili e con una suola di pelle spessa ma flessibile, adesso come scarpe abbiamo di tutto. No, i ramponi dovevano essere a punte anche sul davanti, cioè dava le informazioni che in fondo sono attuali. Sono cose che era il 1801. E questo l'ho trovato. Scusa, e dice una cosa sul tempo che dice chiunque vada in montagna sa quanta verità vi sia nel suo consiglio di rinunciare in partenza a una gita in caso di incertezza meteorologica. Questo sarebbe da scrivere sul marmo una lapide e metterla in ogni rifugio. Se il tempo non è sicuro... Oltretutto non è l'unico... E quante volte siamo andati via lo stesso? C'è anche la stessa cosa che George Heitzman diceva, appunto, i ramponi con i lacci, le paio di scarpe, cioè non era uno solo, poi rimaneva sempre un problema proteggere gli occhi dalle oftalmie, dal rivarbaro e la pelle dalle scottature. Cioè siamo nel 1800, cioè le stesse cose che in fondo predichiamo noi. Inutilmente. Inutilmente, anzi molto spesso inutilmente. Sì. Questa non è una domanda, è un... E io ho tenuto per tanti anni la lezione di scuola di storia dell'alpinismo nella nostra scuola d'alpinismo del CAI Bolzano, e con un mio collega ovviamente, e la cosa più imbarazzante era sempre l'inizio, perché è il punto nodale, no? Innanzitutto anche domandarsi non solo cos'è l'alpinismo, ma cos'è la storia, perché io dico storia dell'alpinismo, e più delle volte cominciavo dicendo che c'è anche una preistoria dell'alpinismo che malauguratamente però è povera di documenti, povera di fatti concreti segnati come si deve, mentre è arrivato l'alpinismo a metà dell'Ottocento con chi aveva i soldi, la cultura o quello che è, per poter imprimere su carta e imprimere su documenti per farne gloria propria nei salotti inglesi, poter dire ecco ho salito la tal montagna, cosa che succedeva veramente fra l'altro, e con ciò hanno fatto la storia. Però quanta preistoria c'era prima? Io menzionavo sempre proprio il Checo da Meleres proprio per dire questo porta su a oltre 60 anni la gente sul cristallo e dicono che è la prima salita, ma ci prendiamo in giro? Ma quando mai? Ma non è assolutamente possibile, cioè. E questo era il mio piacere di dire che bisognerebbe cominciare ad avere un po' di archeologia sull'alpinismo e forse questo libro che io ho conosciuto stamattina sul giornale, per cui non sapevo l'esistenza, spero di poterlo leggere prossimamente, devi. Fa dell'archeologia quindi dell'alpinismo che mi mancava, che scava nella preistoria di quello che io chiamavo nelle mie lezioni la storia dell'alpinismo. Ecco, grazie. Bene, grazie. Comunque una cosa che tante volte non consideriamo, guardiamo l'Himalaya. L'Himalaya, spedizioni, non spedizioni, ma chi va a portare su in cima a queste montagne? C'è gente che l'Everest l'avrà fatto anche 20-30 volte, Mi ha raccontato un mio amico Franchini che è andato a arrampicare nell'Himalaya su cime sui 6.000 metri, che adesso stanno andando quelle lì adesso. Lui una volta è andato su con uno sherpa su una cima che lui era, pensava di essere il primo. No, lo sherpa ha detto, no, io sono già stato qui. Cioè, queste cose qui, no, però nessuno lo dice, perché in fondo c'è anche un problema della mancanza di cultura. Allora non c'era, la gente di montagna non aveva cultura, perciò non aveva da scrivere, non aveva da fare relazioni. Loro andavano a caccia, andavano su, andavano dappertutto, però non c'era nessuno che gli insegnava, perché non avevano la cultura. E questo riguarda la... Io sarei un po'... Cioè, in realtà è una questione di visione occidentale. Io in realtà... Dietro a questo libro ci sono stati anche degli stimoli che sono venuti da tutto un lavoro che è stato fatto negli ultimi vent'anni proprio sull'himalaismo, quando ci si è resi conto che se cadeva una valanga morivano 5 sherpa, si scriveva 5 sherpa, mentre se morivano 5 guide italiane si scriveva nome, cognome, paternità, eccetera, eccetera. Questo certamente è dovuto al fatto che loro non avevano mezzi di comunicazione, però è dovuto anche a una differenza culturale che ci pone in maniera diversa. A parte Sir Edmund Hillary, che con il suo compagno di salita è stato di una correttezza, non a caso figlio di una cultura coloniale antichissima, quindi aveva passato tutti gli stadi, è arrivato a un livello di come si può dire, di anche di elaborazione culturale. Ecco, io credo che sia più che altro una questione di tipo culturale, quindi io provocatoriamente dico che le Alpi hanno bisogno di una storia postcoloniale. Le Alpi hanno bisogno di una storia postcoloniale per molte cose. Io parlo delle Alpi orientali, diciamo da qua verso est, che io ho studiato anche per altre cose, sono state oggetto di uno sfruttamento da parte della pianura che è iniziato dai mercanti di legname veneziani nel 400 e è finito con l'industria idroelettrica. Sì. Negli anni nel 900, cioè l'idea che il lavoro e le risorse naturali della montagna servono in realtà alla pianura. E sono espropriate verso la pianura. Ci sarebbe da fare anche tutto un discorso sugli impianti di sci, perché ci sono alcune realtà in cui queste ricadute sono redistribuite in altre ambiti, per esempio quello francese, in cui sostanzialmente non era rimasto praticamente nulla della grande industria novecentesca dello sci. Quindi questa idea della colonizzazione della civiltà urbana, del piacere di salire alle montagne, è anche legata a una certa idea della montagna come luogo che è stato espropriato delle proprie risorse nel corso dei secoli. Questo non per fare del vittimismo, ma per ricostruire alcuni nessi di storia economica, insomma, sostanzialmente. Sì, sì, che ci sono senz'altro, anche se non tutto è colonialismo, perché in realtà c'è un rapporto simbiotico che funziona. Se noi andiamo a vedere, per esempio, cosa è successo dopo gli anni 50 col cambiamento delle leggi sui sovracanoni elettrici, sì, il consorzio dei bacini imbriferi montani hanno contribuito in maniera molto importante alla realizzazione di infrastrutture, di strade, sul territorio. È chiaro però che le leve delle decisioni non erano in mano loro, no? Ma la ricaduta in parte c'è stata. Quindi è stato un rapporto asimmetrico a lungo, però non è solo in una direzione. No? Sì, un'altra cosa su cui magari hai lavorato te e che è molto interessante è l'industria nella montagna. I cementifici, le cose. Lì sarebbe interessante capire il capitale da dove è stato fatto, sì, per sì, alcuni sì, casi, sì. Però è molto interessante. No, non voglio dire che non ci sia stato scambio, voglio dire grazie al legno che fluitava lungo il Piave, il Brenta, l'Adige, eccetera, in realtà fino al grande cambiamento, la montagna è divisa in due periodi. Prima della metà dell'Ottocento, dopo la metà dell'Ottocento, proprio due ere geologiche. prima della metà dell'Ottocento buona parte del benessere della montagna è dovuto al fatto che c'è questo scambio, che è diseguale, ma non è espropriazione tipo spagnoli in Sud America, non volevo dire in quel senso lì. È una forma di colonialismo de facto della pianura sulla montagna, salvo dove i centri politici sono in montagna, quindi Trento e Bressanone. Lì i centri politici sono in montagna. Adesso siamo noi stessi a svenderci la montagna, no? Nei centri turistici, per esempio. Certo. Questo sarebbe un altro tema adesso. Sì, anche questo è un discorso molto interessante. C'è una vulgata secondo cui il turismo è imposto, molto spesso sono proprio le località della montagna che non si rendono conto del bilancio diseguale del turismo. Parlavamo della circolazione delle macchine. Certo, ma questo è successo in molti casi, per esempio con gli anni 60-70 con il miraggio delle seconde case. Allora tutti sono diventati tutti sono diventati impresari edili, tutti a costruire seconde case, a mettere su caldaie e bidet, perché? Perché c'era bisogno anche di lavorare, però sì. Non finiremo qui. È stato più lungimirante l'Alto Adige, che invece che le seconde case ha costruito le infrastrutture turistiche, le piccole pensioni, i piccoli camini. Ma perché voi siete partiti dopo? Ecco, e lì ha guadagnato, perché io ho visto, per esempio, lo sapete, a Auronzo, 4.500 abitanti, sono 5.000 seconde case. Cioè si arriva a livelli che sono, non possiamo perdere cortine, eccetera. Chiaramente crea un problema adesso a livello turistico. L'Alto Adige straricco, dall'altra parte faticano un po'. Voglio. Bene, ancora domande dal pubblico? No, bene, allora volevo sì. Solo aggiungere una cosa, che mi unisco all'osservazione che ha fatto Ingrid relativamente al discorso della presenza della donna, perché in effetti siamo dei fantasmi, no? Col fatto che non ci sono documenti, non c'è niente, sparisce tutto, e la presenza femminile nel mondo e nella storia non viene contemplata. Allora poi mi venivano in mente, uscendo dal contesto alpino, ma visto che avete citato l'Himalaya, io sono andata dall'altra parte del globo terracqueo, ho pensato alle Ande, dove a 4.000 e rotti metri d'altezza ci sono le donne che lavorano, che si arrampicano, che mangeranno anche foglie di coca, però intanto sono il vero motore, o quasi esclusivamente il motore economico di una zona completamente... al di sopra di ogni possibilità di sopravvivenza, eppure riescono a fare di tutto, compreso anche a garantire un andamento demografico che non è poco. E allora mi immagino che forse sarebbe interessante, ecco, chiedere agli storici, agli studiosi, di indagare ancora di più questo, di restituire una giustizia storica e comunque anche attuale a quella che può essere la figura femminile anche in questi contesti che tradizionalmente sono più di impronta maschile, ma che in realtà, come avete anche cercato di dimostrare, spesso sono comunque accompagnati dalle donne. Ecco, questo ve lo chiediamo. Sì, io lo raccolgo, ma nel momento in cui io dico che veniva fatto un silenzio sulle donne, non sono io che sostengo che quel silenzio fosse giusto. La mia è un dato di fatto. Dopo, come sempre accade, non a caso ho fatto il discorso con le donne, un soggetto storico diventa tale nel momento in cui viene considerato tale. La storia delle donne, perché fino agli anni 50, anzi agli anni 60, sostanzialmente non esisteva, che dopo è diventata storia di genere, che è una... perché non si pensava che ci fossero le fonti. Nel momento in cui si è assunto che le donne avevano una storia nel passato, si sono trovate anche le fonti. E ce ne sono. E ce ne sono. Qua forse è un po' più difficile, ma le assicuro che se io riuscissi, perché poi le mie fonti sono tutte derivate, sono il monastero di Engelberg, le riviste di metà Ottocento, le riviste dei club alpini che erano tutti di uomini, quindi anche se avessero trovato qualche notizia di qualche donna, l'avrebbero seppellita quella notizia. Perché? Perché tra l'altro nella loro mentalità era squalificante dire, come quando prendono la cameriera di Chamonix e la portano in cima al Monte Bianco, l'anno era il 1810-11, 1808, perché la portano in cima al Monte Bianco? Per vedere se una donna resiste al Monte Bianco. Figuratevi, una ragazza giovane che faceva la cameriera a Chamonix, secondo me andava in cima tre volte e tornava giù dal Monte Bianco. Difatti viene considerata, cioè scoprono che anche nella donna, come nell'uomo, la quota non uccide, ecco. Questi sono, era il tipo di mentalità che accompagnava la presenza. Ma se io dico questo non vuol dire che avevano ragione, dico semplicemente quello che è successo. Sì, sì. La storia che noi conosciamo è quella che è stata scritta, no? Il fatto che sia stata scritta in un certo modo condiziona la nostra visione, per questo che le storie e le controstorie sono utili, no? per cambiare questo punto di vista. Bene, io ringrazio molto Andrea Zanini per questa brillante presentazione, il presidente Zanella per essere qui come presenza istituzionale importante, la biblioteca per aver organizzato la cosa, voi per aver ascoltato. Le presentazioni dei libri sono una bella cosa, soprattutto se i relatori sono brillanti come quello di oggi, però non sostituiscono la lettura del libro, sì, che mi invito a comprare e a leggere. Grazie.